per riempire i rimari o a riempire d'altronde ghiandole lacrimali, mettendo a dura prova quelle salivali. Se gli stili sono insipidi li sali, satura i respiri fino ai primi segnali di tosse. Quale rime sostituisco le percosse, l'MC con le skills contro quello pien de mosse. Questo sound come appeal e la lingua come reporter, rappo per poter ridere di me e ridere del potere e ricalcare le storie e le emozioni di un quartiere. Quello che ti do è quello che c'ho, che so, rime ad hoc in stock, da una bocca fumante come la canna di una Glock. Il tuo stile vecchio è targato bedrock, io ho una skills per ogni punta dei miei dreadlock. Mi piace che la micia bruci, io brucio il microfono, il mio microfono mi basta. Sono ritmi e suoni con i quali siamo cresciuti, cassette copiate e poi consumate in due minuti. Rime scritte a stento, ancora li sento, i tentativi con B1 che mi insegnava a stare a tempo. Tengo quei ricordi stretti dentro il mio petto, 9 anni che ho iniziato e ancora io non smetto. Amo il suono che mi spacca, quello doppia H, odio quello che fa il gangsta ma con la pistola d'acqua. 4 complici attaccati a cose semplici, parliamo a vanvera ma non come i politici. Differenzio chi ci fa da chi ci è, chi fa tanto con niente, da chi non fa niente si crede un re. Tratto di penna, traduzioni di emozioni, si tratta di espressioni senza troppe ambizioni. Due teste m'hanno messe con l'infanzia compromessa, passano gli anni e la foto è sempre la stessa. Mi piace che la micia bruci, io brucio il microfono, il mio microfono mi basta. A prescindere dalla scena, l'hip hop è una miscela di amicizia, competizione con un grande amore che si cela. Talento e sbattimento al contempo, non per niente il nome Tacchi qua associato ad ogni evento. 24 battute che viaggiano nel vento e attorno altre 8 di contorno. Non capisci il rap ma non ci metti impegno, non capisci i miei giochi con le lettere, se vuoi te le disegno. Alza quel volume, fa impazzire il tuo vicino, fondo e bassi coi ricordi di una vita quando rimo. Qui non cresce un cazzo, comunque io concimo, spingo rap fino all'estremo con la gente che stimo. Qui c'è un'epidemia dalla quale non puoi scappare, contagiati dal rap, siamo lo stadio terminale. Qui si suda dalla fronte, senza motivazione, senza meta precisa, ma spinti da una passione. Mi piace che la micia bruci, io brucio il microfono, il mio microfono mi basta.